Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, buon lunedì. Oggi abbiamo Filippa Oreggi, regia la parte tecnica. Laura Vanossi ci accompagna sempre in redazione. Io volevo dirvi una cosa. Volete avere una buona probabilità di ammalarvi? Sembra una domanda strana in un programma dove si parla di salute. Io ho una ricetta che è garantita da numerosi studi e voglio darvela. Dai la preferenza ad alimenti raffinati. Assumi molte proteine animali. Riduci o limita il consumo di frutta e verdure. Sii generoso nei condimenti. Sala abbondantemente. Usa zucchero a volontà. Passeggia con bevande zuccherate. Non farti mai mancare gli alcolici. E se ti viene voglia di fare due passi, siediti e aspetta che ti passi. Bene, abbiamo esagerato, però non di molto. Il nostro stile alimentare è un po' in crisi e, senza averne la percezione, ci stiamo allontanando a grandi passi dalla dieta mediterranea di cui, nonostante tutto, continuiamo a professarci grandi estimatori. Anzi, pensiamo che sia un po' scritta nel nostro DNA. Crediamo, insomma, di essere capaci istintivamente, per tradizione, per illuminazione, di combinare piatti e ricette della dieta più buona e salutare, quella che il mondo ci invidia e cerca di imitare, la dieta mediterranea. Eppure seguirla diventa per molti troppo difficile. C'è un'indagine che fotografa bene questo momento di crisi, di confusione. È il primo rapporto sulle abitudini alimentari degli italiani a cura di Censis Coldiretti, e in linea con noi abbiamo il dottor Francesco Maietta, che è ricercatore Censis e responsabile delle politiche sociali. Dottor Maietta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dottor Maietta, vorrei ma non posso. Credo che questa frase rappresenti bene il vissuto degli italiani nei confronti dello stile alimentare, della dieta mediterranea nello specifico. Assolutamente sì. Considerate che dalla nostra indagine risulta che la grande maggioranza degli italiani dichiara che gli piacerebbe seguire un regime alimentare più sano, ma spesso non ci riesce. Considerate che sono soprattutto i 30-44 anni e le donne a dichiarare questo del loro comportamento a tavola. Noi andiamo a caccia di informazioni su valori nutrizionali, calorie e grassi, ma quando ci sediamo a tavola, in casa e soprattutto fuori casa, cosa che accade sempre più di frequente, a decidere è il sapore, il gusto, le nostre preferenze individuali. I valori nutrizionali vengono molto dietro come criterio di scelta dei cibi da mettere in tavola. Senta, prima della tavola voi siete andati anche un po' a sbirciare nei carrelli della spesa degli italiani. Assolutamente sì, anche questo, ed è nei carrelli degli italiani che si vede quali sono i criteri che presiedono la scelta degli alimenti. Voi considerate che gli alimenti più presenti sono i prodotti surgelati, 70% degli italiani dichiara di acquistare prodotti surgelati, poi abbiamo anche molto scatolame ed anche cibi precotti. Naturalmente abbiamo anche le cose che afferiscono più alla dieta mediterranea classica, quindi verdure, frutta, però ci piace averli già pronti, lavate e tagliate e pronti all'uso, quelle che acquistiamo sostanzialmente nei supermercati. Diciamo che il carrello degli italiani mostra che ognuno di noi si fa una dieta molto individuale, che tiene insieme cose che anche apparentemente si pensa siano in contraddizione tra loro. Appunto, noi possiamo acquistare prodotti DOP e al contempo fare uso di scatolame. Dottor Maietta, voi avete descritto questo atteggiamento come politeismo alimentare, una definizione che calza a pennello, ma quali sono le giustificazioni? Perché siamo così un po' schizzati quando facciamo la spesa e quando combiniamo un menù a tavola? Io direi non schizzati, ma noi cerchiamo di rispondere ad alcune esigenze, tenere insieme alcune esigenze che, come detto, sono i gusti e le preferenze individuali, ma anche il tempo. Noi abbiamo bisogno di cibi che si possono cuocere rapidamente e che durino nel tempo. Questo spiega ad esempio l'utilizzo di surgelati e scatolame. E poi sostanzialmente non ci piacciono i precetti troppo rigidi. Per farvi un esempio, considerate che tra coloro che dichiarano di acquistare con una certa regolarità frutta e verdura da agricoltura biologica, il 27% va anche tranquillamente al fast food, e tra coloro che si dichiarano consumatori intensi di verdura, addirittura più della metà acquista regolarmente scatolame. È un pragmatismo estremo nella scelta di cosa acquistare e cosa mettere in tavola, e direi che questo è in linea con i comportamenti più generali che gli italiani hanno, che sono estremamente pragmatici, lontani da visioni molto ideologizzate che spesso tendono ad arrivare anche in tavola. Dottor Maietta, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Intanto qua accanto a me ho l'ospite del giorno che ha ascoltato l'intervento del dottor Maietta, il professor Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Professore. Buongiorno. Insomma, questi italiani cosa le sembrano? Beh, gli italiani sono su una brutta china, nel senso che il loro stile alimentare sta peggiorando. E sta peggiorando, secondo me, anche per il gusto, per il sapore, no? Perché i cibi semplici, no? I cibi semplici della nostra tradizione sono molto più buoni dei cibi, diciamo, fra virgolette, industriali, no? Dai surgelati allo scatolame e ai cibi precotti. E soltanto che il nostro gusto è un po' avvelenato da sapori forti, no? Nel senso che siccome questi cibi non sono buoni di partenza, devono metterci zucchero, devono metterci panna, devono metterci sale, no? Per farli sembrare saporiti. Se voi leggete le etichette è drammatico, no? Vedete, lo zucchero si trova ormai, è difficile trovare al supermercato un prodotto che non contenga zucchero. La panna è drammaticamente utilizzata anche perché la gente vuole il latte scremato perché c'ha il colesterolo alto, no? Ma questa panna che tolgono dal latte ce la fanno mangiare tutte in qualche modo, perché mettendo un po' di panna, no, tutto sembra buono, si aggiusta, no? E invece no, noi insegniamo ad aggiustare, no? Ma usando soltanto ingredienti semplici. Questo è quello che facciamo nei corsi di cucina che facciamo all'Istituto dei Tumori. E di cui parleremo sicuramente nel corso della trasmissione, ma io dai dati delle etichette io salterei invece ai dati che fotografano un aumento delle malattie del benessere. Io ho aperto appunto con questa ricetta per avere buone probabilità di ammalarsi, ma abbiamo la conferma. In linea con noi abbiamo il professor Walter Ricciardi, che è direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, a mangiare male, insomma, alla fine si perde molto, si perde in salute. Aumentano infatti le cosiddette malattie del benessere. Sì, io sono pienamente d'accordo con il professor Berrino, e questo noi lo vediamo negli ultimi 10 anni, soprattutto nel sud, dove è stato più forte l'abbandono della dieta mediterranea e dove è stato più evidente l'aumento delle patologie cardiovascolari, del diabete e degli stessi tumori, perché mentre, diciamo, nel nord in qualche modo c'è stato un livellamento, comunque un aumento dell'incidenza, cioè dei nuovi casi, ma una diminuzione della mortalità, al sud invece c'è stato anche un aumento di questa, e le regioni più interessate, per esempio, sono proprio Campania e Sicilia, regioni che appunto con la dieta mediterranea erano protette e che invece negli ultimi anni stanno diventando quelle in cui c'è appunto la maggiore prevalenza di casi di malattie cardiovascolari, di tumori, e il diabete è una malattia che impera soprattutto nel sud, dove è maggiore il sovrappeso e l'obesità. Quindi veramente a quello che dice il professor Berrino, cioè della perdita di gusti, corrisponde anche una perdita della salute, sia in termini di quantità di vita ma anche in termini di qualità di vita. Professor Ricciardi, io la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata. Grazie altrettanto a voi. Allora, cari amici, direi che è tempo di cambiare. E professor Berrino, noi abbiamo detto che lei è proprio che è direttore del Dipartimento di Medicina Predittiva. Noi possiamo predire che chi mangia male aumenta sensibilmente il rischio di ammalare. Il problema è che noi, mangiando 3 volte al giorno o 2 volte al giorno per chi fa una colazione affrettata, poi alla fine non abbiamo proprio chiara la consapevolezza di avvelenarci, no? Quotidianamente, perché ci prendiamo un po' la mano, è l'abitudine. Però abbiamo degli indicatori che ci aiutano a capire quanto la nostra dieta ci stia stia ammalando, ci stia rovinando la vita, ci stia togliendo la salute. Sono delle variabili, degli indicatori molto semplici che possiamo fare anche noi, no? Senza essere medici, ma lei ci aiuterà naturalmente, un'autovalutazione. Io direi che per la prima possiamo prendere che cosa ci serve? Un centimetro? Il centimetro della sarta, se ci serve. E poi eventualmente una calcolatrice per chi non è tanto afferrato come me con i numeri, però ci aiuterà anche internet. Allora, il centimetro della sarta, dove lo mettiamo questo centimetro della sarta? C'è un punto strategico. Dobbiamo misurare la circonferenza vita. E allora, per chi ha un punto vita, si misura nel punto vita, no? La raccomandazione è che nelle donne questo punto vita rimanga sempre al di sotto degli 88 centimetri e che negli uomini rimanga sotto i 100 centimetri. Chi non ha più il punto vita già deve preoccuparsi un pochettino, perché è facile che sia un po' più largo, no? E allora si misura, comunque si prende l'ultima costa, no? Si va un po' sotto l'ultima costa, 2 centimetri sotto l'ultima costa, sempre che te la trovi l'ultima costa, perché chi è molto grasso non esiste. Però chi è molto grasso non ha nemmeno bisogno di fare la misurazione della circonferenza si vede da sé. E poi c'è quest'altro indicatore, che è l'indicatore classico, che è l'indice di massa corporea, no? Uno si divide il peso espresso in chilogrammi, per esempio un ragazzo che pesa 100 kg, no? Sì. E che è alto 2 metri, no? Sì. E lo si divide per l'altezza, ma lo si divide 2 volte per l'altezza, cioè lo si divide per l'altezza al quadrato, quindi 100 diviso 2 fa 50, ancora diviso 2 fa 25. Quindi l'indice di massa corporea di questo ragazzo è 25. 25 è considerato il limite fra il normopeso e il sovrappeso. Però già 25 significa avere le maniglie dell'amore, è difficile, a meno che uno sia un grande atleta. Gli atleti possono avere anche un indice di massa corporea superiore pur essendo sani, ma le persone normali che hanno 25 devono cominciare a essere un po' preoccupate. Sopra i 25 significa essere in sovrappeso, sopra i 30, no, è la definizione ufficiale dell'obesità. Dobbiamo stare sotto i 25, più vicino ai 20. Professore, noi abbiamo sempre legato questi due valori alla salute del cuore, no? Abbiamo sempre detto che il girovita abbondante al cuore non piace, così come un valore superiore ai 25, superiore ai 30, ancora di indice di massa corporea. Ma non è solo il cuore, il professor Ricciardi ha evidenziato chiaramente il numero delle malattie del benessere, quindi vuol dire diabete, eccetera. Che cosa vuol dire avere questi chili di troppo, e non solamente chili di troppo, anche mal distribuiti, localizzati in alcuni punti chiave che abbiamo visto, soprattutto il grasso addominale. E noi troviamo nei nostri studi, noi facciamo questi studi in cui seguiamo centinaia di migliaia di persone, troviamo nei nostri studi che questa distribuzione del grasso corporeo è associata non solo alle malattie di cuore, è associata al diabete naturalmente, è associata anche ai tumori, in particolare ad alcuni tumori, i tumori della mammella, i tumori dell'intestino, ed è associata anche alle artriti, è associata alla cataratta, è associata all'Alzheimer. Anche le demenze senili non sono sono favorite da questo nostro stile alimentare che ci porta a mettere ciccia sulla pancia, no? E quindi dobbiamo fare qualche cosa per far andare giù questa ciccia, no? E le cose da fare sono due: una è quella di fare attività fisica e l'altra è quella di evitare gli alimenti ad alta densità calorica, cioè che in poco volume ti mettono tante calorie e che sono molti dei cibi industriali, i cibi ricchi di zuccheri e di grassi, e sono gran parte dei cibi che vengono pubblicizzati in televisione. A cui noi proprio ci stiamo abituando, anche proprio come lei diceva e il professor Ricciardi confermava, come gusto. Andrea Paolo, che ci chiama da Torino, ci chiama all'800 24 00 24. Paolo, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Io proprio diciamo, riagganciandomi a quest'ultima frase relativa ai cibi industriali, diciamo così, che sono più venduti rispetto ai cibi non industriali, ai cibi biologici. Io volevo far notare che, pur avendo 43 anni, mi ricordo di quando ero bambino, di che cosa sapevano le fragole, di che cosa sapevano i pomodori, e di non essere più in grado di trovare cibo che abbia quel tipo di qualità, quel tipo di gusto, come invece si trovava una volta, insomma. Il problema è che andiamo tutti ai centri commerciali perché lo stile di vita che ormai ci è imposto ci impone appunto di andare ai centri commerciali, per cui il fatto che ai centri commerciali si trovi del cibo di scarsa qualità non è colpa nostra, il problema è che noi dobbiamo andare lì a fare la spesa e quindi non possiamo metterci a fare il giro delle cantine, certo. o dei casali di campagna per trovare le fragole buone o il formaggio che sappia di formaggio, che non sia c'è un problema di tempo e anche un problema di spesa, professor Berrino, questo è sicuro. Paolo ha ragione. Ha ragione Paolo, però diciamo che c'è un movimento culturale, un'organizzazione che sta crescendo, no? Che da un lato favorisce i contadini e dall'altro favorisce anche i cittadini, no? Che sono quelli dei mercati, no? Si stanno sempre più creando i mercati in cui i contadini portano il loro cibo in città. E magari una volta al mese, una volta nei 15 giorni, non ci sono queste cose, no? È bene informarsi ed approfittarne. E poi, no, c'è l'evoluzione dei gruppi di acquisto, i gruppi di acquisto solidali, i gruppi di acquisto che anche a Torino ci sono, ce n'è per esempio uno che sta nascendo all'ospedale San Giovanni Vecchio, e questi, dove uno può, associandosi ai gruppi di acquisto, avere accesso del cibo di altissima qualità e anche a prezzi inferiori, non tanto inferiori, perché l'obiettivo è anche quello di retribuire in un modo giusto i contadini. No? Perché i contadini sono sfruttati, cioè il prezzo delle carote sale di 10 volte, no? Tra quello che viene dato al contadino e quello che si compra al supermercato, tanto per fare un esempio. Allora il senso del gruppo di acquisto è anche quello di favorire, invogliare i contadini a continuare a fare i contadini e a farlo in un modo sano e produrre dei cibi buoni. Noi oggi insieme al professor Berrino parleremo di una dieta amica della nostra salute, quindi cerchiamo di operare un cambio di rotta che può essere graduale, può essere anche molto semplice iniziando a leggere l'etichetta dei prodotti che acquistiamo al supermercato. Tutti abbiamo fretta, per fortuna ci sono i supermercati che rimangono aperti, io per prima mi butto e dico benedetto questo supermercato che è aperto fino alle 9 perché raccati qualche cosa, ma già noi possiamo diventare consumatori più informati e più consapevoli. Ma vogliamo parlare anche di una dieta che ci fa stare meglio quando magari abbiamo un problema di salute e quindi in qualche modo riesce a ridurre i sintomi o anche a produrre una sorta di guarigione, professor Berrino. Ne parleremo nel corso della trasmissione e intanto io vi invito a chiamare l'800 24 00 24 se avete un problema di salute, se volete capire e farvi aiutare dal professor Berrino per magari così calibrare in modo più intelligente e salutare la vostra dieta, privilegiando alcuni alimenti, riducendone un'altra. Questa è una buona occasione. Intanto abbiamo Anna che ci chiama da Milano. Buongiorno Anna. Buongiorno. Allora, io, la mia corporatura è piuttosto massiccia, infatti ho dovuto subire un intervento di bendaggio per cercare di migliorare la mia situazione, anche se non ho mai superato i 98 kg. Sì. Quindi, allora, invece il problema è per mia nipote che ha 8 anni, è alta praticamente 1,42 m, pesa 52 kg. Sì. Vediamo tutti che è piuttosto robusta, non è grassa, però è robusta. L'abbiamo portata a fare alcune visite, ci hanno detto di metterla assolutamente dieta, però questa bambina mangia pasto, mangia abbondante, però non pasticcia durante il giorno, assolutamente. Sì. Non mangia, ecco, l'unica cosa, non mangia verdura, mangia soltanto 2 o 3 tipi di verdure. Capita. Se vado dal pediatra invece mi dice assolutamente bisogna intervenire. Perché questa qui è l'età diciamo più difficile. Bene. Allora, professor Berrino, che fare? Noi sappiamo che alcuni dati dicono che abbiamo i bambini più cicciottelli d'Europa. Sicuramente il sovrappeso nei bambini è un problema. E sì, alcuni dicono che ridurranno quegli anni di vita che abbiamo guadagnato con migliori cure, una dieta più buona. Quindi sembra certamente, veramente un po' una spada di Damocle. Stiamo veramente rovinando la vita ai nostri bambini, no? Nel sud il problema è più drammatico che nel nord, però anche nel nord sta aumentando continuamente. E allora che fare? sappiamo benissimo quali sono le cause di questo sovrappeso. La prima causa sono le bevande zuccherate, no? Via Coca-Cola, via Fanta, via Schweppes, via tutte queste cose qua, no? Non si deve pasteggiare con queste bevande, no? Bisogna eliminarle dalla tavola dei nostri bambini. L'altra cosa sono le porcherie che si mangiano sotto forma di patatine fritte, no? Di merendine, no? E di fast food, no? Ma che queste cose siano la causa dell'obesità dei bambini e anche dei grandi è molto ben dimostrato oggi, gli studi sono tutti coerenti, no? L'altro grosso problema sono la televisione e i PlayStation, no? Perché i bambini di oggi non escono più in cortile a giocare perché le mamme hanno paura che succeda qualche cosa, che vadano sotto una macchina, fortunatamente è una paura anche giustificata, ma è cambiato il nostro modo di vivere, no? E quindi i bambini fanno meno attività fisica. E allora quello che sarebbe da fare è che questa attività fisica si faccia a scuola, no? Certo. Come prescrivono le leggi e come non si rispettano le leggi. Anna ha un caso un po' tra virgolette difficile, perché dice che la sua nipotina, 8 anni, mangia solo a pasti, non mangia fuori pasti, quindi segue quelle che sono le indicazioni che voi medici date. Certo. Aggiungete anche naturalmente gli spuntini, che siano di spuntini a base di frutto, di verdura. Ma Anna dice, la mia bambina, mia nipote, si sente anche un po' il timore che questa morbidezza sia qualche cosa di familiare. Anna stessa ha detto, sono robusta di costituzione. Certo. E la nipote anche ricalca un po', no? Certo. Ci sono sicuramente delle cause, delle predisposizioni ereditarie per l'obesità, no? Chi ha i genitori grassi è più facile che diventi obeso, ma per due ragioni. Una, perché i geni, no, dicono la loro, e l'altra perché comunque i genitori mangiano male se sono grassi, mediamente adesso, no? E quindi a maggior ragione, no, se i genitori sono grassi, no, dobbiamo fare molto molta attenzione alla dieta dei nostri bambini, no? E la soluzione è di dargli delle cose molto buone da mangiare, no? non privargli di cose buone, no, ma di offrirgli delle alternative molto buone. La dieta per stare bene, la dieta per ritornare a stare bene, in linea in studio con me il professor Franco Berrino. Professore, noi abbiamo detto che abbiamo diverse variabili per fare un'autodiagnosi, ci siamo misurati il girovita, abbiamo calcolato l'indice di massa corporea, però anche gli esami del sangue ci dicono qualcosa, sicuramente magari qualcuno di noi ha sotto mano degli esami con dei valori che possono segnalare che qualcosa nella dieta è sbagliato. Quali sono gli indicatori importanti? Allora, gli indicatori principali che tutti i medici prescrivono, no, sono la glicemia, il colesterolo e i trigliceridi. E l'altro indicatore molto importante è la pressione arteriosa. Se si dice che, per esempio, per una donna che ha la circonferenza vita di 88 cm o più, oppure che ha la pressione un po' altina, oppure che ha la glicemia sopra i 100, che ha i trigliceridi sopra i 150 o il colesterolo buono sotto i 50, se ci sono tre di queste variabili, tre di questi valori alterati, si dice che ha la sindrome metabolica. E la sindrome metabolica è associata alla gran parte delle malattie croniche di oggi. Dobbiamo prevenire, l'obiettivo principale di sanità pubblica oggi e di educazione alimentare è la prevenzione della sindrome metabolica. E quindi ciascuno può valutare, no, in che situazione è. Si sa che se ha la sindrome metabolica o anche se ha solo alcuni di questi fattori, no, è più a rischio di ammalarsi, anche di cancro, anche di Alzheimer, non solo di malattie di cuore e di diabete. E per cui può interrogarsi su cosa fare per, no, ridurre questo rischio. Noi stiamo facendo uno studio in cui chiediamo proprio la collaborazione delle signore sane che però hanno la circonferenza vita maggiore di 85 centimetri. E questo è uno studio che comporta un cambiamento alimentare e anche l'uso di un farmaco, di un vecchio farmaco per il diabete che sembra che ci siano parecchi indizi che possa prevenire i tumori, si chiama la metformina, e chi è interessato può cercare le informazioni sul sito internet dell'istituto. E poi anche le signore, abbiamo un altro studio che invece è rivolto alle signore che hanno avuto il cancro della mammella, e allora noi scegliamo quelle che hanno la sindrome metabolica. Sì. Oppure anche che facciamo un esame del sangue, che hanno l'insulina alta nel sangue o hanno gli ormoni sessuali alti nel sangue, E anche questo studio è in corso, già più di 2000 donne hanno aderito al progetto, no? Ma dobbiamo assolutamente avere dei numeri poi maggiori. Noi sicuramente lanciamo sempre questi. Questo è lo studio Diana 5. Questo Diana 5, noi abbiamo parlato tante volte insieme al professor Berrini dei progetti Diana, e quindi oggi rilanciamo queste, arruoliamo per chi, donne che hanno un giro vita superiore a 85 centimetri, queste sono donne sane, no? Per uno studio di prevenzione del cancro della mammella. Mentre? Invece le donne che sono state operate di cancro della mammella negli ultimi 5 anni, no? Sono invitate a venirci a incontrarci per vedere se possono entrare in questo studio. Come sempre potete andare sul sito dell'Istituto dei Tumori, ma come sempre Essere Benessere, che appoggia da sempre Progetto Diana, che riesce proprio a cambiare anche lo stile di vita delle donne operate di tumore. Abbiamo già avuto i primi risultati dopo un anno di partecipazione, no? Abbiamo visto che le signore che lavorano con noi dimagriscono senza che noi mai diciamo di mangiare poco, diciamo di mangiare diverso, no? E questo è già un effetto molto incoraggiante sul potenziale successo di questo studio, che ha l'obiettivo di prevenire le recidive del cancro della mammella. Proprio questo è un esempio di come l'alimentazione possa essere considerata cura, terapia, vero professore? Ci sono già molte indicazioni, no? In particolare per i tumori dell'intestino e per i tumori della mammella, e proprio per questo abbiamo iniziato questo grande studio, per avere una conferma molto più forte. Ma per le malattie banali, le malattie comuni, per la stitichezza, per la colite, no? È molto ben... Per moltissimi disagi quotidiani che abbiamo, no? Con l'alimentazione possiamo fare moltissimo, no? Per il diabete possiamo fare moltissimo. Quindi se avete qualche anche piccolo problema, 824 0024, approfittiamo della presenza qua in studio del professor Berrino per darvi delle indicazioni. Andiamo a Firenze, ci aspetta Maria. Maria, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Prima di tutto volevo ringraziare Nicoletta per le splendide trasmissioni. Oh, Maria! Poi volevo chiedere al professore, io sono una signora, come ha detto lei, generalmente sana, però ho il giro vita di 88. Certo. E oltretutto che no, non mi piace... 88 è al limite, non è gravissima, ma è 88 è al limite. Sì. Però sono bassa, 1,56 m, certo, e peso allora, 60 sì. 61 kg e qualcosa, sì. Io volevo in tutti i modi perdere del peso, ma hanno consigliato, e ho fatto ora in questi giorni, 15 giorni passati, una dieta a base di proteine, escludendo pane, pasta, grassi e zuccheri, e io in 15 giorni ho perso 3 kg. La mia paura era che magari li avrei presi, oppure siccome c'era scritto proprio che avrebbe influito sul metabolismo, di scatenare qualcosa di non piacevole. Però volevo perdere in tutti i modi dei centimetri di giro vita, e 2 centimetri li ho persi. Vede. Bene. Però dicevo una cosa. Però sei preoccupata che questa dieta qui non debba essere continuata, perché potrebbe farti male. Esatto, qui c'è scritto che per i prossimi 2 anni non si può fare. Però io volevo sapere, siccome non è che io ho preso molto peso, ma piano piano, e questo giro vita che è sempre aumentato, e mi sembra di stare abbastanza attento all'alimentazione, però si vede che non in modo giusto. Quanti anni ha, signora? 65. Ma senta, è questa dieta che viene raccomandata da tantissimi medici e stregoni per dimagrire, no? Funziona effettivamente, perché se uno non mangia zuccheri, no, si abbassa l'insulina, quindi si riduce la fame di zuccheri, no? E noi abbiamo però una strategia di abbassare l'insulina con una dieta completamente diversa, che aumenta invece i carboidrati invece che ridurli, però aumenta i carboidrati che cedono zucchero molto lentamente. Quindi la pasta va bene, il pane bianco non va bene, la pasta può andare bene, vanno molto bene i cereali integrali, vanno molto bene tutte le verdure, no? Non c'è bisogno necessariamente di mangiare tanta carne, perché tanta carne, tante proteine favoriscono varie malattie, no? E noi siamo preoccupati in particolare per i tumori. Mangiare tanta carne, tante proteine, una dieta molto ricca di proteine, è vero che abbassa l'insulina e che aiuta a perdere chilo, a perdere pesi, ma però altera il nostro metabolismo in un modo che aumenta il rischio di ammalarci anche di cancro, no? Per cui preferiamo le strategie diverse, no? Di mangiare dei cibi non industrialmente raffinati. Quindi cereali integrali, verdure tantissime, no? Un po' di frutta, non esageratamente, perché la frutta è molto zuccherina naturalmente, perché dei cibi che saziano tanto. Naturalmente bisogna saperli cucinare che diventino buoni, no? Questo è... Anche perché molte persone dimagriscono, Maria ha detto, ha perso 2 centimetri, certo, ha abbandonato, no? Quindi per un periodo carboidrati, zucchero, eccetera. Però no, funziona, nel momento in cui Maria si rimette a mangiare, perché non potrà fare una dieta esclusivamente proteica a lungo... Si rimette a mangiare il pane bianco, no? Il farina 00 e queste cose qua, e le patate, no? E rischia di... Ecco, allora a Maria e a chi, come Maria, ha fatto un periodo di dieta ed è soddisfatto, ha perso i chili. Come andare avanti? Come andare avanti? Ha già avuto un cambiamento di rotta nella sua mente, ha cercato già di fare un po', no, di pulizia. È il momento di approfittare per convertirsi ad una dieta più salutare, che al tempo stesso non lo faccia aumentare di peso. Che cosa deve fare Maria? Allora, Maria, per esempio, visto che è toscana, può mangiare la ribollita, ma senza mettere tanto olio dentro. La ribollita è buonissima anche con pochissimo olio, no? Può mangiare la zuppa di farro, classica, no? Ma tutto dipende dai condimenti che ci mettiamo dentro. Ma se è fatta bene... non c'è quasi bisogno di condimenti, no? Può mangiare i legumi, no? Tutti i legumi vanno molto molto bene e non fanno ingrassare, anzi ci aiutano a perdere peso perché rallentano la velocità di assorbimento degli zuccheri. Bisogna mangiarli, introdurli gradualmente nell'alimentazione, perché uno non è abituato gli gonfia la pancia se mangia i fagioli, no? Fare le creme di legumi, per esempio. E se lei condisce la pasta asciutta con una crema di legumi, no? Quasi quasi non c'è bisogno di mettere olio di mettere grassi per condirla. 800 24 0024 e vede che poi alla fine si parla sempre, si finisce sempre, come si dice tra amici, con il parlare di cibo, di alimentazione, di ricette, che sono quelle che ci fanno anche stare bene, ci rendono anche piacevole la vita, perché quello che lei propone anche nei suoi corsi sono ricette salutari, ma soprattutto che appagano il gusto e saziano. Esattamente, no? E anche i dolci. Allora, grande richiesta, professore, richiedono, si vede che sono ascoltatori proprio di quelli, no, dello zoccolo duro di essere benessere, la ricetta dei biscotti del professor Berrino, perché è diventata famosa, io li faccio, ma la daremo, professore, io me lo segno. Benissimo. Qua, ce lo ricordiamo, perché abbiamo Maria Teresa da Pisa che ci aspetta. Buongiorno Maria Teresa, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno dottoressa, buongiorno professore e grazie di tutto quello che fate. Premesso che io e mio marito abbiamo seguito una dieta del tipo consigliato dal professore, siamo felicissimi, abbiamo perso i nostri chili, stiamo bene. Però ieri, proprio ieri, degli amici ci parlavano, ci caldeggiavano questa dieta, se non ricordo male, definita Montignac. Sì. La quale si basa non, se ho capito bene, sulla quantità di calorie dell'alimento mangiato, bensì sull'indice glicemico. Certo, per sì. cui, se non ho capito male, io in teoria potrei mangiarmi un'insalata ottima condita con tutto l'olio che voglio, perché l'olio non ha indici, non sollecita l'insulina. Io sono rimasta molto spiazzata da questa cosa. Volevo sentire il professor Berrino cosa ne pensa. Ma Montignac ha scritto un libro molto, molto bello, no? Io mangio, quindi dimagrisco, no? E giustamente ha sottolineato l'importanza dell'indice glicemico degli alimenti. L'indice glicemico alto è quello della farina 00, del pane bianco, dei dolci di pasticceria, delle patate, dei fiocchi di mais a colazione. Sono tutti alimenti che aumentano molto rapidamente la glicemia, quindi ci mandano in ipoglicemia, perché c'è una reazione insulinica, e quando siamo in ipoglicemia ci viene fame di zucchero. Per cui più mangiamo zuccheri, più ci viene fame di zuccheri. E invece, usando degli alimenti, fondamentalmente degli alimenti integrali che hanno un indice glicemico più basso, no? Ovviamente anche i grassi hanno gli alimenti che non contengono zuccheri, no? Hanno un indice glicemico bassissimo, no? Però hanno calorie molto alte, quindi bisogna leggerle queste cose con un po' di saggezza, insomma, no? Se sei grasso è bene avere una dieta a basso indice glicemico, ma anche bassa di grassi, no? Perché altrimenti sarà molto più faticoso dimagrire. E quello che noi insegniamo nella nostra cucina di Cascina Rosa è proprio quello di fare dei piatti che sembra che ci siano grassi, no? Ma in realtà non ci sono, ce ne sono pochi, il giusto. Perché il grasso è chiaramente una cosa che fa piacere avere, no? Perché dà molta soddisfazione in bocca, no? E lo facciamo queste cose con le creme di verdure, con le creme di legumi, no? Che danno questa proprietà, danno proprio quella morbidezza, danno del grasso senza dare le calorie, quella morbidezza, ma senza dare le calorie, e danno fibre. Andiamo a Bergamo, c'è ancora un'altra Maria Teresa. Pronto? Buongiorno, grazie di avermi chiamato e per quello che fate. Maria Teresa, la sento, se mi alza un po' la voce preferisco, perché così la sento meglio. Benissimo, pronto, andiamo così, andiamo di diaframma. Vai, pronto. Maria Teresa, mi sente? Sì, adesso la sento. Dunque, io sono celiaca, sì, e da 3 anni mi hanno diagnosticato la celiachia. Avevo l'atrofia totale dei villi, adesso i villi sono cresciuti al 50%. Bene. Con la dieta senza glutine, in modo ferreo. Sì. E niente, ho il colon anche irritabile e anche una neuropatia che mi stanno, un sospetto di neuropatia a livello intestinale che mi stanno curando. Certo. Volevo chiedere, per quanto riguarda il colon irritabile e la pancia che mi si gonfia tantissimo, al di là del carbone vegetale che prendo, quali elementi devo evitare? Le direi quali elementi deve prendere, no? Lei deve mangiare la crema di riso integrale. Il riso va benissimo per i celiaci, no? Lei compri un riso di qualità, no? È un riso integrale di qualità, lo faccia cuocere a lungo, una tazza di riso, 10 tazze di acqua, lo fa cuocere per magari 2 o 3 ore addirittura, poi lo passa al setaccio in modo da togliere le fibre, perché le fibre irritano molto l'intestino. Bisogna guarire questo colon irritabile, poi si potrà riprendere a mangiare fibre, no? E questa crema, anche se è una crema, la mastichi molto bene, la digerisca bene con la sua saliva, no? È un tocca sana per l'intestino, va benissimo per la celiachia, no? Ed è il consiglio migliore che le posso dare. Allora, la crema di riso integrale va bene per i celiaci, ma soprattutto va bene per chi ha una colite, perché ha l'intestino irritabile. Ecco, e no? Si mangia, che cosa ci aggiunge? Mi faccia aggiungere qualcosa. Aggiungiamo. Se il riso è buono anche così, ma per esempio se lei la mangia con una cipolla soffritta, no? Si fa soffriggere piano piano le cipolle, no? Che diventino belli marroni ma senza bruciare, sì, che diventano dolci dolci, lei le passa assieme alla sua crema, fa anche le cipolle passate, è una cosa assolutamente deliziosa. Oppure con una mela cotta, no? Per fare un budino, no? Sì. Con una crema di mandorle, no? Una crema di mandorle, crema io di riso, io mela voglio cotta, andare a vivere col professor Berrino, di mandorle bianche, e una cosa deliziosa, no? Che fa bene per... Allora, tra poco il biscottini, eh? Franca, dalla provincia di Pisa, buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Dunque, io sono affetta da artrite reumatoide. Sì. E, da tanti anni, avevo 45 anni e ora ne ho 63. E ho subito tantissime operazioni e ora ricomincio da capo di nuovo a subirne. Ora, l'ultima che ho fatto è uno scivolamento di vertebre e a momenti dovrò fare un arrene. È ingrassa. Per forza, sto ferma. Certo. Lei sono tantissima, però sono 65 kg, però sono sempre stata una sessantina, ma questi 4-5 kg li prendo sempre, tutte le volte che vado sotto operazione. Guardi, giustamente quando c'è una patologia così delle articolazioni, l'attività fisica non è praticamente possibile, però lei può pensare al nuoto, perché il nuoto si riesce a fare anche con una malattia delle articolazioni, no? Quindi consideri l'opportunità di andare a fare in piscina, no? Di andare a muoversi in piscina. Ma per queste malattie, no, che hanno delle cause che conosciamo soltanto molto marginalmente, è molto importante avere una dieta che non aumenti l'infiammazione. Quello che aumenta l'infiammazione sono i cibi animali, non fuorché il pesce, no? Quello che riduce l'infiammazione in generale sono la maggior parte dei cibi vegetali, no? In particolare la crema di riso, il riso integrale di cui parlavo prima, no? È un alimento che riduce molto l'infiammazione. Dobbiamo usare quindi una dieta con alimenti calmanti che riducono e che è proprio quello che... Le carni aumentano molto l'infiammazione. Il pesce no? Il pesce no, i formaggi sì, no? E quindi bisogna andare più sul vegetale, no? Sul vegetale meglio, integrale naturalmente, per evitare queste questioni, perché lo zucchero alto nel sangue aumenta moltissimo l'infiammazione. Quindi cereali integrali e verdure, poca carne, quasi... Nel suo caso io direi proprio di non mangiare carne, può mangiare però pesce. Mangiare pesce. Adriano ci chiama da Verona, buongiorno Adriano. Buongiorno, buongiorno. Guardi che lei ha una responsabilità, Adriano. Se va lungo ci salta la ricetta del biscottini, Accidenti, facciamo velocissimi. Il mio problema è, diciamo, doppio. Io in questo momento ho avuto una seconda ricaduta di trombosi e quindi sono in cura col Coumadin e questo mi dà dei problemi di alimentazione. Tre mesi fa sono stato ricoverato per una diverticolite. Sì. E adesso praticamente la cosa è abbastanza grave, però si è risolta con Umatin e Asacol, con queste medicine. Però adesso mi trovo in difficoltà con la dieta, perché quello che va bene per una non va bene per l'altra. Certo. E io dovrei mangiare tante verdure e non posso mangiare verdure perché hanno la vitamina K e mi complicano la trombosi. Lei vada sui cereali integrali sotto forma di creme di cereali, non solo di riso ma di orzo, farro. Puoi fare una crema di farro, puoi fare una crema di miglio, no? Che sono cose che non hanno nessun problema per le trombosi, anzi vanno bene, no? E guariscono le diverticoliti, no? Può mettere anche un pochettino di legumi, ma solo passati, no? Bisogna evitare che ci sia la buccia, perché può irritare i diverticoli, no? Le creme di cereali sono per un periodo, lei non deve mangiare sempre pappette di cereali, guarisca la sua diverticolite e poi potrà mangiare le fibre anche. E potrà mangiare anche i biscottini. Adesso abbiamo 30 secondi, a grande richiesta, i biscottini del professor Verrino, a essere benessere? 30 secondi sono ampiamente sufficienti. Voi mettete a bagno dei fiocchi di avena alla sera e li mettete da bagno in succo di mela senza zucchero, no? Che sia belli bagnati. Io lo metto con l'acqua, però l'acqua sarà per quando sarete abituati. E poi ci mettete una bella manciata di mandorle tritate e anche una manciata di uvetta sultanina e un pizzico di sale, che sempre ci vuole nei dolci. Lasciate a bagno tutta la notte. Il mattino dopo prendete le cucchiaiate di questo pastone, le mettete sulla vostra teglia antiaderente, no? E fate dei brutti e buoni, mettete al forno un quarto d'ora, 20 minuti a seconda del vostro forno e avete i biscotti pronti da masticare molto molto bene, perché sono ricchi di fibre. Allora io vi ricordo Progetto Diana, professor Berrini, Istituto dei Tumori. Trovate tutto sul sito dell'Istituto dei Tumori, ma trovate anche sulla pagina di Essere Benessere, quindi per donne sane, per donne invece che hanno avuto un tumore al seno, per evitare le ricadute, prima cosa. Seconda, ho fatto un'intervista ad Alberto Pellai, che sta lavorando su un libro che ha rivoluzionato le politiche anche di Michelle Obama sulla alimentazione dei bambini, i condizionamenti alimentari, che sono molto subdoli. Noi mangiamo perché siamo estremamente così esposti a degli stimoli, mangiamo anche perché lo troviamo lì, senza più sentire il senso della fame. Andate a sentirvi questa lettura e intanto scriveteci se avete bisogno. Biscottini per domani, e noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11, professor Berrino. Bene, buona giornata. Buona giornata. E buon appetito. Essere e benessere.